Let me go!

vede, io resto. No, buona notte. Buona notte. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. Se tu vorrai, ma scusa. Ehi, dentro a porta del fine. No, entra, no, entra. Non puoi vedere, non puoi uscire. E tu, no, entra, no, tra questi brilli non sapevi qui. No. Se è ferita, nasconti, nasconti. Apri la porta, vuoi avanti. Resta, no, resta, no, resta. Johnson d'infer. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo nostro Ramirez? E là? Ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua.

a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. Che tu l'adori. Listo!

altro da dire. Là, andiamo. Perdonerete tutti. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。